playlist tutti i tempi. Già ho sbirciato non solo la presenza letteraria ma anche musicale portata da Stefano e Silvia per questo mercoledì 17 aprile, il mercoledì magico di Radio Città Fujiko, letterario con il Voltiamo Pagina. Inizia puntuale, quindi buongiorno Silvia, ben ritrovata. Buongiorno a te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. 333-180-9494 per voi, avremo il quiz. Oggi libro sorpresa o libro a disposizione? No, oggi metto in palio il libro che, di cui parliamo. Attenzione, attenzione quindi, direi di iniziare la nostra playlist letteraria, poi ascolteremo, vi assicuro, grande musica come di consueto per il resto, non è che ci siano diverse categorie. Tra l'altro, come ben sapete, rompiamo tutti gli steccati con le selezioni di Silvia e Stefano, portando eterogeneità all'interno del Breakfast Club nelle sue playlist. Stiamo un pochettino meglio, io ho avuto la settimana scorsa con Malanni di Stagione, ho saputo che anche Stefano mi ha tenuto compagnia in questa. Sì, Stefano direi che è uscito per la prima volta domenica. Sì, quindi... più o meno come me allora, ecco. È stata una settimana abbastanza tosta. Cambi di stagione, una primavera che arriva e non arriva, un buon libro che ci tiene comunque sempre buona compagnia. Allora iniziamo anche per la giornata odierna, la playlist letteraria. Cosa hai portato in redazione? Dunque, ho portato un libro intitolato La ribelle di Gaza di Asma Al-Ghul e Selim Nasib, edizioni E.O. E quindi un grande momento di attualità, voglio dire. Sì, momento di attualità, anche se questo libro è uscito nel 2016, cioè è in italiano, esce per la prima volta adesso, però è un libro del 2016, quindi non, chi lo legge non deve andare a cercare cronaca di quello che sta succedendo adesso. Anche se già nel 2016 di certo situazione non era così. Ed è una buona idea questa, anche per ricordare quello che da tempo succede in Medio Oriente. Ecco, infatti direi che è molto giusto far uscire questo libro in questo momento, perché ci dice un sacco di cose su quella che era la vita anche nei periodi non bellici, diciamo, a Gaza, per la gente comune. Cose che forse noi non, io ad esempio devo dire in tutta onestà, non immaginavo così. È la storia, non è un romanzo, è proprio un documento, è un memoir che questa giornalista di Gaza ha raccontato, dettato allo scrittore libanese ma di lingua francese Selim Nasib, e che hanno messo in piedi insieme. Quindi lei parla proprio della sua vita dalla nascita fino al 2016. Lei è nata nel 1982, quindi anche relativamente giovane, direi, voglio sì. dire. Ecco, e lei è nata proprio nel campo profughi di Rafah. E quindi già comincia raccontandoti cos'era un'infanzia a Rafah, in una famiglia che non era certo diciamo indigente, ma che non era neanche benestante. Tanto per cominciare, lei era la prima di 9 figli, ecco. quindi ti racconta queste case piccole dove si dormiva in due in un letto e cose del genere, ma soprattutto ci sono due elementi chiave, diciamo, nella narrazione. Ovviamente come si viveva sotto l'occupazione israeliana, ma anche sotto i diktat di Hamas. Per cui tu vedi come la gente di Gaza era sia tenuta appunto ristretta da determinati diktat e allo stesso modo sotto attacco. E allo stesso modo sotto attacco, appunto. Per complicare le cose, due suoi zii erano capi di Hamas. Ecco, tanto per concludere questa bella cartolina, ecco. Quindi, e mentre suo padre era un, non so se sia ancora vivo, era ed è, penso che sia ancora vivo, un individuo estremamente liberale, sia per il luogo in cui vive che per i tempi anche. Quindi, e per fortuna per lei, le ha permesso di fare tante cose anche a scapito della sua stessa incolumità, che altri padri non avrebbero mai permesso, insomma. Ecco, questa giovane dunque cresce per la prima infanzia a Gaza, poi si trasferiscono negli Emirati, dove lei proprio arriva, che sembra, non so, il topo di campagna che arriva, sì, in città, proprio vede questo stacco netto tra la vita estremamente arretrata che conduceva a Gaza e queste cose. Per esempio, faccio per dire, non aveva mai visto la televisione, ecco, tanto per dire una cosa. E poi una ragazza che appunto riesce molto bene negli studi, eccetera, riuscirà ad avere tutta una serie di premi e di borse di studio che la portano anche in America e diventa una, il suo sogno è farla giornalista, e diventa appunto una giornalista. Collabora soprattutto per un giornale americano online, e nel quale però parla della situazione palestinese. E la sua opera è essenzialmente un'opera di denuncia contro i dirigenti di Hamas. Questo ti lascio immaginare come erano, certo, contenti i suoi zii. Ecco. E che cosa lei ha dovuto subire, passare, anche da parte della sua stessa famiglia, diciamo, sì, di familiari. Ci sono chiaramente, quindi ti racconta sia questa infanzia a Rafa, sia i viaggi di studio che lei fa, che servono per ampliare in maniera molto scioccante la sua visione, perché appunto viene da una realtà che è inimmaginabile nel mondo occidentale, diciamo. I premi, eccetera, ma anche perché non è una persona che non è capace di star zitta, insomma. Ah, ho capito, e ne ha passate di tutti i colori. Sì, racconta anche i pestaggi che ha subito, la prigionia, è stata anche in prigione, e lo stesso fatto di essere riuscita a mettere insieme questo libro in maniera rocambolesca, perché per incontrarsi con lo scrittore di stanza in Francia che ha trascritto questo memoir, chiaramente ha dovuto fare dei viaggi assolutamente delle peripezie, e per concluderlo è dovuta arrivare dove lui in Francia, dove lui l'attendeva, in anche lì un villaggio sperduto della Francia, attraverso l'Egitto. Ecco. Perché era l'unico modo per riuscire ad avere il contatto. Infatti. E tra le pagine più dure che ci sono, a parte quelle non poco cupe dei pestaggi appunto che lei subisce e che poi la portano anche alla prigione, c'è la descrizione dell'attacco del 2014. Sì. Attacco del 2014, nel quale viene proprio bombardata la casa dove lei aveva vissuto, e fortunatamente in quel momento la sua famiglia viveva fuori da Rafa, da un'altra, però il padre era andato quella mattina lì proprio a fare, non so, a guardare l'orto, non mi ricordo più, e quindi lei riesce a salvare il padre, ma il padre si riesce a salvare, ma non si salvano due nipotini piccolissimi, due gemellini, e altri diversi altri personaggi della sua famiglia, diversi altri familiari. Mi sembra che in tutto muoiano 9 suoi familiari in questo attacco. E quindi una situazione veramente grave, pericolosa, stretta in una morsa tremenda in un Medio Oriente che è una Santa Barbara sempre in procinto, ed è in procinto e tuttora in esplosione, per cui qualcosa che ci porta a un piccolo passo indietro per non essere limitati alla restrizione dell'informazione che dà, magari anche se vogliamo, per mantenere una contemporaneità, ma non dimentichiamo il percorso storico che appunto tra Israele e Palestina si perde nei decenni precedenti con determinati aspetti. Tra l'altro questa ne è una testimonianza importante appunto, sì, per non dimenticare. Ecco, quello che è importante secondo me in questo libro è anche come ti fa vedere quale sia la situazione femminile in questi posti, cioè come ad esempio Hamas proibisca alle donne, tanto per dirne una, di andare in bicicletta. Sì. Esige il velo. E lei chiaramente per tutto il tempo che è in, a Gaza non porta il velo, e una volta viene anche sorpresa a fare un giro in bicicletta con degli amici americani. Ecco, per cui quindi, puoi immaginare dai dirigenti di Hamas tutto ciò come può essere visto. Ed è una delle tante tra gli aspetti che vediamo in questa cruenta situazione che viene sottolineata in questo lavoro, lavoro vero, tra sì, l'altro, sì, vero, vero. Lavoro vero dal titolo La ribelle di Gaza. E noi portiamo anche una playlist molto particolare. Beh, una playlist di brani di lotta. Questo, esattamente, e cominciamo con il brano di Giovanni Mirabassi, È un piano solo. Il disco si chiama Avanti. Sì, il, è un disco... Il titolo, e tu hai detto, è bellissimo. È un disco bellissimo che abbiamo scoperto, mi ricordava Stefano, io non lo ricordavo, in Francia, un anno in Francia, siamo andati presso una signora ad Arles, e nella sua discografia aveva questo disco che poi abbiamo ricercato e trovato a fatica. Giovanni Mirabassi è un pianista jazz, sì, che però distanza in Francia, e questo disco è stato stampato in Francia, sono tutte canzoni di lotta al piano solo. E il Pueblo Unito è il primo, prendiamo il primo, partiamo. Andrebbe bene qualsiasi, direi. Thank you. strutturata magnificamente, il Pueblo Unido, altri brani che troviamo all'interno di questo lavoro, Avanti di Giovanni Mirabassi al piano solo, Hasta Siempre, Bella Ciao, Addio Lugano Bella. Allora, per ascolto personale, riuscire a mettere in musica, per così dire, legata a un'improvvisazione nel jazz e non solo, con una struttura come stiamo ascoltando che riporti il tema e nello stesso tempo dia una forbita improvvisazione per un brano di lotta politicizzato, è tutt'altro che facile, perché il più delle volte l'aspetto politico prende il sopravvento sull'aspetto creativo, per cui insomma è veramente molto difficile mettere insieme l'aspetto artistico e l'aspetto di lotta e di politica. In questo caso abbiamo ascoltato invece un esempio molto calibrato e allo stesso tempo portato musicalmente in maniera molto strutturata e allo stesso tempo carica di un fantasioso talento. Bene, si conferma una playlist molto particolare portata da Silvia e Stefano, anche una copertina minimale ma che sembra veramente un volantino di lotta, sì. Molto semplice e chiaro, gran bel disco, grazie. Sì, puoi dirlo forte. Senti, a proposito di questo libro, piuttosto che parlarne, volevo leggerti un pezzo per farti capire com'è questo libro, che, ripeto, non è un romanzo. Ed è quello che lei scrive proprio dopo l'attacco del 2014. Dice: la morte davanti ai tuoi occhi è diversa dalla morte in televisione. Sullo schermo le immagini sono accompagnate da un'ottica ideologica o politica, da un senso che in fondo attenua l'evento e lo rende sopportabile. Quando però si svolge sotto i tuoi occhi, l'evento ti riporta alle cose essenziali, la guerra e la pace, il bene e il male, la gente che muore perché la storia lo esige. Non si tratta più di Palestina né di altro. Quello che hai sotto gli occhi è il fatto grezzo, la carne, il sangue, la morte, il sandalo e quelli che parlano ancora un secondo prima di morire. È molto più spaventoso, non c'è ringhiera, non c'è griglia interpretativa a cui reggersi. Vedi morire degli innocenti e i tuoi occhi credono quel che vedono, ma il cuore si rifiuta di accettarlo. E più avanti dirà: uno ammazza per mantenere al potere la propria famiglia, l'altro ammazza in nome di un'interpretazione distorta dell'Islam, il terzo ammazza in nome di una terra cosiddetta promessa. E i missili cadono sempre sulla testa degli stessi, quelli che non hanno potere, quelli che dormono credendosi al sicuro, che hanno la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, che non hanno la religione consona, che preparano il caffè prima di uscire. In fondo tutto diventa religioso in questa regione e tutti quelli che hanno il potere di uccidere lo esercitano a loro piacimento. La guerra è guerra, porta via la gente come un'inondazione. Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your row. Keep a moving with that plow, drive a man'll show you how. Get to work and root that stump. Drive a man'll make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time. We'll be right back. parole di Silvia torniamo in diretta accompagnati da un capolavoro assoluto che è We Insist, un disco manifesto con la voce di Abbe Lincoln, musicisti come Max Roach, Coleman Hawkins, un disco come potete ben ascoltare, oltre che impegnato, una struttura jazzistica di un pregio veramente di una qualità elevata. We Insist, Max Roach, Freedom Now Suite. Intanto arrivano anche i complimenti da Paolo. Buongiorno Willy, puoi dire a Silvia che mi è piaciuta davvero tanto, non ha riportato in quale circostanza, possiamo solo che immaginare e ringraziare Paolo. Grazie. Disco bellissimo. Una pubblicazione Candid Record e un lavoro che veramente è una pietra miliare nel jazz impegnato. Quindi alle 8 e 25 minuti io direi che Silvia possiamo iniziare. Intanto anche a me sei piaciuta tantissimo nell'interpretazione e il brano che hai scelto per dare un sunto al lavoro appena presentato con la Ribelle di Gaza e o edizioni. Abbiamo il quiz quindi, sì. No? Allora, il quiz è per vedere chi sono i nostri lettori, i nostri ascoltatori e ascoltatrici più attenti. Affezionati! Sì, perché noi circa un mese fa abbiamo presentato un altro libro di Selim Nasib. È vero! Ecco, io voglio il titolo di quel libro. E noi intanto portiamo un altro disco meraviglioso. Mi devo un pochettino allungare per lanciare il piatto più lontano dalla struttura di console. È un altro vinile. Avete non solo dei CD ma anche dei vinili stupendi. I vinili sono più belli dei CD. Eh beh, come sempre. Perché certo, sono più antichi. Sì, assolutamente. Charlie Hayden, contrabbassista clamoroso. E abbiamo la Liberation Music Orchestra. Questa è l'introduzione. Sì, l'introduzione più rappresentativo, ecco. È l'introduzione del disco di Carla Bley. Sì. È un'altra donna importante come Abbe Lincoln. È vero. Abbe Lincoln, Carla Bley, mamma mia, Silvia, ma guarda le baba. Che capolavoro anche questo. Noi torniamo tra poco. Intanto ovviamente non c'è bisogno, no, di ripetere il quiz. È un libro già presentato. Sì, è un dell'autrice. No, dell'autore. Dell'autore. La Ribelle di Gaza è di Asma, racconta la storia di Asma Al Ghul. Sì, è per la protagonista che ho invertito il genere. Che l'ha scritta insieme a questo scrittore di lingua francese chiamato Selim Nasib. Noi abbiamo già presentato poco tempo fa un romanzo, questa volta di Selim Nasib. Giusto. Aggiungiamo su una cantante egiziana. Di più non dico. E noi vi lasciamo a proposito di musica in buona compagnia con la Liberation Music Orchestra. Charlie Hayden, a tra poco. Thank you. بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية جوكاري كوموندو فاتندو لا بيتسي Era alzar, mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire, affogar nel sangue con l'umanità. Gente colorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Nuovamente in diretta, cara Silvia, come dare torto ai complimenti che arrivano per la playlist, quindi vedi, tanto con gli Area stiamo portando un altro brano importante per valore aggiunto nella selezione musicale di Silvia e Stefano. Allora, cominciamo con la risposta di Paola, che è l'amante palestinese. No. No. Risposta errata, però grazie per aver giocato con il Breakfast Club. Intanto Gianluca, che scrive immediatamente dopo: ti ho amata per la tua voce. Risposta esatta. Gianluca, buongiorno. Raffaele non porta risposta, ma scrive playlist fantastica. Quindi grazie. Grazie. Grazie. Michela, risposta esatta, non sei arrivata però al primo posto, ma ti invito a restare all'ascolto anche per il libro a cui darò presentazione a breve, che sarà in palio grazie a Ubic, libreria di Via Ernerio 27 a Bologna. Michele scrive: adoro ascoltarvi il mercoledì mattina in particolare. Ci siamo solo il mercoledì mattina insieme. Beh, puoi venire anche domani, sei preparata sull'Uzbekistan se vuoi venire. Come no? Grazie Michela. Anche Maria Carla, affezionata ascoltatrice, ti ho amata per la tua voce, anche in questo caso la risposta è esatta, ma Gianluca è stato velocissimo a questo giro. Poi si corregge anche Dino, dopo aver dato una risposta un po' frettolosa, la moglie. No, no. Però, no. Però c'è un però, la moglie in effetti era un romanzo ambientato a Gaza. E Luigi, playlist coinvolgente, personalmente azzarderei anche Stalingrado. Beh, questo grazie per il consiglio. E non ci abbiamo un altro giorno. Un'altra volta. Ce l'abbiamo. Certo. Mm-hmm. concludo ringraziando anche Jarno da Calderara, che è arrivato a completare una playlist di ascoltatrici e ascoltatori che ringraziamo per aver giocato con Radio Città Fugico. Jarno da Calderara, risposta esatta, ti ho amata per la tua voce, ma è arrivato un pochettino in ritardo. Il premio se lo accaparra Gianluca, che potrà ritirarlo già da oggi pomeriggio in libreria Ubic di Via Ernerio 27, ovviamente Bologna. Oh, che bel libro, un po' particolare, romanzo distopico amatissimo dalla Atwood, esce nel 2006, arriva in Italia grazie a Fazi, è una scrittrice svedese che risponde a nome di Ninni Holmqvist. Il titolo semplice, L'unità, nulla a che fare con la testata organo di partito, niente a che vedere, ma per quanto riguarda l'uscita editoriale di Fazi ci si trova in un momento molto particolare, dove con l'aspetto distopico si può parlare di una realtà invece vicino a noi. La protagonista è una donna scrittrice, cinquantenne, single e senza figli, e viene invitata, per così dire, tramite un programma così iniziato da un'organizzazione parastatale che invita in maniera decisa alcuni cittadini che hanno le caratteristiche che ho appena elencato, cioè una vita senza impegno particolare sentimentale e senza figli, con una vita che di percorso è più attenta alla qualità che alla quantità, una vita serena, una vita dedicata all'arte, alle passioni. Vengono invitati a questa unità. In questa unità si ritrovano e stanno divinamente, tanto più che vi potrei leggere, anzi a breve lo farò, l'incipit di questo lavoro, tanto che in questo giardino, dove abitazioni che sono estremamente accoglienti, estremamente belle, così senza sfarzo, ma con tutte le possibilità che portano a un incontro, a una condivisione, presentazioni filosofiche, presentazioni letterarie, concerti di una certa qualità, insomma. E quindi dov'è l'inganno in tutto ciò? Beh, l'inganno è che sono controllatissimi da questa unità, sono costantemente visionati, registrati. Perché? Perché bisogna poi fare una donazione che consiste nell'essere sottoposti a esperimenti sia fisici che psicologici, per dare una continuità a una società che vede in questi personaggi alcuni privilegiati che non meritano di poter continuare un percorso di vita sulla qualità e non sulla quantità, come se fossero a debito di qualcosa, come se dovessero restituire. Il famoso vivi, consuma e crepa è protagonista, cioè, ma come, pensi a una vita dove unicamente la qualità della tua vita sia qualcosa che è motivo di crescita? Beh, devi metterti a disposizione come, tra virgolette, cavia del sistema, fino ad arrivare a una donazione finale. Certamente non svelerò poi i percorsi del libro di Ninni Holmqvist, che a me è piaciuto, anche se certamente inquietante e di percorso distopico, ma se ci pensiamo non è poi così lontano da una quotidianità e da una realtà che stiamo vivendo per chi ha fatto determinate scelte. Ammetto che mi sono sentito anche coinvolto in tutto ciò. Comunque ora un piccolo stacco musicale, rientro, faccio il quiz e poi magari ne leggiamo l'incipit. Ninni Holmqvist nel 2006 fa uscire questo lavoro, L'unità, già ritenuto un classico moderno contemporaneo. Anch'io cerco di restare a livello, con On the Sunny Side of the Street. Lui è Lester Young, a tra poco. Thank you. vi sto a chiedere i contenuti e il motivo di On the Sunny Side of the Street, in quanto in epoca gli afroamericani potevano camminare solamente sulla parte più assolata della strada. A loro era negata anche la possibilità di spostamento all'ombra. Però Lester Young con questo brano vuol portare dalla parte più soleggiata della strada, nasce poi una grande creatività, un momento di incontro, se vogliamo. Certo, ci mettete in difficoltà, ma abbiamo il sole dalla nostra parte. On the sunny side of the street. Lester Young alle 8:44 minuti verso la conclusione, quindi anche vicini al quiz per avere l'unità di Nini Holmqvist, un libro che mi ha colpito per quanto riguarda il cosiddetto aspetto distopico, che poi non è così lontano, se vogliamo, da certi aspetti, no? Quindi per chi ha scelto una qualità piuttosto che una quantità, chi ha guardato bene i suoi percorsi, ha preferito una vita con aspetti che danno precedenza a determinate realtà che non sono poi prioritarie come invece vorrebbe un ipotetico sistema, beh, in questo caso una sorta di dorata reclusione come per restituire questi aspetti che si sono scelti. E infatti, come ho dato brevemente presentazione, aspetti nei quali poi tra l'altro mi sono anche molto riconosciuto, quindi c'è stato un coinvolgimento ulteriore. In questi contenuti di aspetto distopico, una scrittrice, Margaret Atwood, ha parole veramente cariche di entusiasmo, ha portato recensioni molto molto cariche di entusiasmo, positive per il lavoro di Nini Holmqvist. Allora, da Margaret Atwood per il nostro quiz, lei ha avuto un libro e diversi libri dove l'aspetto distopico è presente. Un titolo in particolare portava il racconto di una protagonista, di una figura femminile, il racconto del puntini puntini puntini della, e voi darete la risposta al 333-180-9494 e per voi Nini Holmqvist con l'unità. Beh, mi è stato anche tradotto in una serie televisiva, mi pare. È il racconto del puntini puntini puntini, lei Margaret Atwood. Aspetto la risposta al 333-180-9494. Thank you. Il racconto dell'ancella, quindi risposta esatta per Marco. Ben contento di ritrovare anche Andrea, sarà per la prossima volta. Mi raccomando, al 333-180-9494. Intanto grazie a Marco, libro a disposizione da oggi pomeriggio alla libreria Ubic. Anche Luigi con risposta esatta. Salutiamo anche Lorenzo, già in nostra redazione, attento al voltiamo pagina. Arriva ma un po' in ritardo anche Paola. Vediamo su altre modalità di risposta. Intanto subito in tempo reale la risposta esatta con Ancella, il racconto dell'Ancella di Margaret Atwood, è arrivato da Marco. Anna, risposta esatta. Grazie Anna per aver giocato con Radio Città Fujiko. Ti invitiamo al mercoledì e non solo a far colazione con i 103.1. Oggi abbiamo un voltiamo pagina molto molto partecipato, questo è molto bello, grazie. Sono le 8:49 minuti però e stiamo giungendo al termine, i vincitori saranno contattati. Ho cercato di nominare tutti i partecipanti e con un caloroso abbraccio ringrazio per aver giocato con il voltiamo pagina. Volevi aggiungere qualcosa in conclusione, Silvia? Sì, dunque oggi pomeriggio c'è il secondo appuntamento con le letterature del mondo alla Biblioteca Cabral alle ore 18 e si parlerà del libro, della nuova traduzione del libro di Gloria Anzaldúa, La frontiera. Lunedì 22 c'è invece il terzo appuntamento con la cultura inglese degli anni 80 e alle 18 in Sala Borsa parleremo di cinema e teatro con Valentina Vetri e Gino Scatasta. Dopodiché andremo tutti al mercato Sonato per l'Eco del Padrone. Eco del Padrone, curatela del crape di Radio Città Fujiko, certo. E relativo DJ set. Perfetto. Grazie per l'attenzione, grazie mattiniere e mattinieri, appuntamento a domani per un viaggio oppalà in Uzbekistan in mostra. Comunque la colazione sarà puntuale alle ore 7, grazie per l'ascolto. Parli di una mostra che si tiene in Uzbekistan? Le avanguardie del deserto, con tanto di quattro lavori di Kandinsky. Io ho visto qualche immagine. Dove scusa? A Ca' Foscari a Venezia, io sabato sono là. Mi hanno detto dall'ufficio stampa, un compagno come te non può mancare e quindi sabato sarò appunto a visionare. Bravo. Queste immagini dalla Ca' Foscari, già di per sé prestigiosa sede espositiva. A breve avrò l'intervista con la curatrice, domani la portiamo in frequenza in mostra. È tardissimo, vi saluto, vi abbraccio, ti abbraccio Silvia a distanza, grazie. Grazie, grazie Stefano, ciao. Ciao a tutte e tutti. A domani.